Stamattina il vecchio Chuck Bird vi porta letteralmente in giro per il mondo, perso tra i quattro punti cardinali della musica rock. Siamo stati in California, siamo stati a Boston e anche a Detroit Rock City, grazie a questi quattro sciamannati che rispondono al nome di Kiss. Ma la mattinata prosegue grazie alla grande musica offerta da Rock FM. Questi sono Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheels. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Painted pony on the spinning wheel ride. FM. Thank you. Rainbow Street of Dreams, Chuck Bird è qui con voi tutte le mattine dalle 6 alle 7 dalle frequenze di Rock FM con la sua tazza di caffè nero bollente e le sue chiacchiere. E vi va di ascoltare una storia su Robert Smith, la storia di come Robert Smith The Cure ha inventato Let's Go to Bed? Sì? Allora prima godetevi Ozzy Osbourne e poi ve la racconto. Goodbye to Romance. Ozzy Osbourne all'Early Bird Special. Ma vi avevo promesso un paio di chiacchiere sui Cure, se non vado errato, ed eccole qui. Parliamo dell'inizio degli anni Ottanta, il 1982 per la precisione. Fino a quel momento Robert Smith, leader dei Cure, aveva preso spunto per le sue composizioni da fonti serissime, la letteratura esistenzialista francese, i sogni indotti dalle droghe, immagini sordide. Ma Let's Go to Bed fu un'inversione di rotta notevole. Quando l'ho scritta, commentò una volta lo stesso Robert Smith, pensavo fosse un pezzo stupido che non valesse niente. È uno scherzo. Tutti i brani pop di quel periodo essenzialmente dicevano: dai, vieni a letto con me. Così l'ho reso il più sfacciato possibile e ci ho messo sotto un riff di sintetizzatore di facile presa. In pratica ogni aspetto che detestavo della musica di quel tempo, insomma, continua Robert Smith. Let's Go to Bed era paccottiglia. Io e Lord Turrest l'abbiamo registrata in 10 minuti. La Fiction l'ha pubblicato e all'improvviso ha cominciato ad essere trasmesso da 15 radio diverse in America. La solita sfiga. Una canzone scritta per scherzo, registrata per sbaglio, ma che arrivò in cima alle classifiche di tutto il mondo. Let's Go to Bed. E la canzone? Mica l'invito a tornare a letto, eh? Let's go to bed. Oh. Cosa state facendo, ragazzi? È tempo di uscire dal bed. Early Bird Special, come tutte le cose belle, anche questa mattina vi dobbiamo salutare. Io vi ringrazio personalmente per l'ascolto e vi do appuntamento a domani mattina, sempre dalle 6 alle 7, sempre dalle frequenze di Rock FM. Vi lascio nelle capienti mani della coppia più rock and roll della mattinata qui a Rock FM. Il DJ Ariele è Freak Anthony con pane, burro e rock and roll. Da Chuck Bird è tutto. Aloha!